Vendo tutto di Matteo Caccia. La Vespa, il frigorifero, il corso di tennis e quello d'arrampicata, il divano, il cellulare, la TV, l'abbonamento a teatro, l'attrezzatura da sci e quella da sub, l'orologio da polso e quello da parete. Tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una penna stilografica. Sono le 16:08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e cominciamo subito col dare un briciolo di dettagli. Allora, siccome molti mi chiedono le musiche, l'elenco dei brani che mandiamo in onda, allora Laura ha promesso, Laura non fare con la faccia, ha promesso che settimana prossima sulla pagina di Vendo Tutto, chiaramente all'interno del sito di Radio 24, ci sarà un... che cosa ci sarà, Laura? Un archivio con su tutti i dettagli dei brani, non da scaricare ovviamente, no, solo i nomi dei brani che abbiamo messo. Questo diciamo tanto per cominciare. Poi oltre alle mail che mi arrivano, mi capita che mi fermi della gente e mi chieda perché lo sto facendo. Prima al bar, ad esempio, ho incontrato Alessandro, che è un ragazzo che lavora qui in redazione, che mi ha chiesto come andava la vendita delle mie cose. Gli ho raccontato degli oggetti che erano già su eBay, di quello che mettevamo oggi, e lui era stupito del fatto che ci fossero delle persone disposte ad acquistare le cose dopo che io gli avevo raccontato la loro storia, che è una cosa strana, perché io credevo fosse il contrario, no? Dopo che racconto una storia di una cosa, magari uno si affeziona. Per lui invece era proprio il contrario. Lui mi diceva, ad esempio, la chitarra. Io te l'avrei anche presa, perché la chitarra è pure qui in redazione e quindi l'aveva vista. Dice, però, dopo che tu hai raccontato la storia, che con la chitarra hai conosciuto la tua fidanzata, non riesco a prendertela. Io ci ho provato a spiegargli che è proprio il contrario, che io sto cercando di alleggerirmi delle cose e che per me è importante semplicemente i ricordi che mi lasciano e non gli oggetti. Ma niente, non era convinto. E veniamo invece all'oggetto di oggi. Sono le 16:09. Oggi vendo forse, possiamo ufficialmente dirlo, il primo oggetto di reale valore che ho messo all'asta da quando ho cominciato lunedì. Allora, l'oggetto di oggi non è un regalo, non è un acquisto, è un premio per un concorso. L'oggetto di oggi è una penna stilografica della famosa casa di produzione di penne stilografiche tedesche, di cui non vi dirò il nome, Montblanc, e che ha un... Io, Pietro, se non ti dispiace, io farei sentire il suono che fa questo pennino sulla carta. Vi prego, alzate il volume, fermatevi se siete in macchina, se siete a casa, alzate il volume e sentite che roba. Ok, non vi dico che cosa ho scritto, perché non è il caso, ovviamente è il mio nome, visto che la prima cosa che viene in mente da fare è sempre scrivere il proprio nome. Questa penna è in vendita, ed è già su eBay, potete andarci sul sito, ovviamente tramite il sito di Radio 24, radio24.it, ci sono tutti i link del caso. Come vi dicevo, questa penna è un premio che ho vinto ad un concorso. Mentre prima ne parlavo in redazione, è venuto fuori che tutti hanno vinto un oggetto ad un concorso, ad una gara. Nel senso che se vinci una gara e ti danno la coppa, vabbè, grazie, quella te la metti sulla tua mensolina. E se sei un campione di sport come Tiziano Bonini, c'hai la mensola piena. Se invece fai dei concorsi assurdi, ad esempio, non so Pietro La Corte, che oggi è in regia, che concorso abbia fatto, so che ha vinto lui un microfono condensatore, ha detto. Un microfono a condensatore. Laura Faggini invece non so in quale concorso ha vinto un angioletto fatto all'uncinetto, mentre Tiziano Bonini in una delle gare podistiche che ha vinto, nelle varie gare podistiche, ha vinto soprattutto dei salami e dei formaggi. Quindi 800 24 00 24, vorrei sapere quali sono gli oggetti, mi raccomando devono essere degli oggetti e non delle coppe, altrimenti siamo da capo, gli oggetti che avete vinto a delle gare o a dei concorsi, qualsiasi essi siano, anche se sono appunto dei prodotti alimentari, se sono dei ninnoli da attaccare alla parete, se sono robe d'abbigliamento, arredamento, qualsiasi cosa, basta che sia stata vinta ad un concorso. 800 24 00 24. La mia penna stilografica invece è già in vendita, per vederla radio24.it, per sentire la sua storia. Eccoci qua. La penna stilografica. Penna stilo Montblanc, colore nero con rifiniture in acciaio, cappuccio con testa trasparente e marchio di colore bianco. Comprensiva di custodia originale nera con interni in raso, 5 cartucce di inchiostro blu e di libretto di istruzioni. Possibilità di incisione e goffratura della propria firma. Mai usata. Ottima per chi ama la scrittura a inchiostro o per un regalo di laurea. Valore commerciale 150 euro e base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Esistono cose che è sufficiente osservare per intuirne il valore. Sono oggetti che possiedono una sorta di valore assoluto costruito nel tempo. Un valore che rimane costante anche se sono prodotti in serie e non sono pezzi unici, anche se sono nuovi, non antichi. Se dopo averle osservate queste cose si ha la possibilità di prenderle in mano, di toccarle, di soppesarle, non si capisce perché, ma quella sensazione di valore si fa immediatamente palese, quasi inevitabile. È come se la loro consistenza confermasse che un oggetto fatto di quel materiale lì, che ha quel peso, non può che essere un oggetto di grande valore. E dire che in realtà, in assoluto, il peso delle cose non è di per sé indicativo, no? Di nulla. Cioè, ci sono oggetti che fanno della leggerezza un loro punto di forza, come i cellulari, ad esempio, i computer portatili, i televisori di ultima generazione, mentre ce ne sono altri che puntano all'estetica o alla ricercatezza dei materiali e che del peso proprio non se ne preoccupano, tipo gli oggetti d'arredamento, le automobili. Gli oggetti carichi di valore invece no. Hanno un peso specifico che per convenzione è una garanzia di qualità. Gli oggetti di cui sto parlando sono per lo più gioielli, orologi, accessori d'abbigliamento e alcune penne, penne stilografiche. Penne come questa che sto tenendo in mano ora. Nera, con il disegno del Monte Bianco incastonato nel cappuccio e da cui oggi mi separo. Io continuo a fare quello che ho iniziato a fare lunedì, continuo ad alleggerirmi delle cose e mi stupisce quanto ogni giorno che passa, ogni pezzo che vendo, mi senta sempre meglio, mi senta letteralmente più leggero. Non è facile liberarsi degli oggetti che si possiedono, anche se questi oggetti sono facilmente sostituibili, come una penna stilografica, ad esempio. Voglio dire, che bisogno reale c'è di una penna stilografica che costa 200 euro? Così come di un orologio da 5.000 o di una borsetta da 800 euro, no? Nessuno. Perché gli oggetti di grande valore sono quasi sempre oggetti inutili, cose di cui si può tranquillamente fare a meno, come i diamanti, o che se proprio servono, come le penne, sono facilmente sostituibili da oggetti che fanno esattamente lo stesso lavoro ma che costano quanto un pacchetto di caramelle. Eppure c'è qualcosa in questi piccoli oggetti di grande valore che rende la vita un po' più apprezzabile. C'è qualcosa nella cura con cui sono stati creati, nella loro fattura e credo soprattutto nella loro inutilità, che li rende meravigliosi. È come se il semplice fatto che questi oggetti esistono conceda anche a noi la possibilità di non agire sempre e solo per un fine concreto, sensato, agli occhi del mondo. È come se potessimo permetterci il lusso di camminare la mattina in un parco, senza dover per forza portare fuori il cane o passarci per andare al lavoro. Perché se qualcuno ha speso del tempo per creare una penna come questa, che non ha niente di più di una penna da cartoleria, se non per il fatto che è un oggetto meraviglioso, ovviamente, beh, allora anche il tempo e il valore che gli diamo assumono un senso più privato, più intimo. Anche se non possediamo una penna così, anche se non ce la possiamo permettere, anche se la vendiamo, quella penna, col suo valore, la sua bellezza, non smetterà di ricordarci quanto le cose belle possono essere inutili e quanto l'inutilità, a modo suo, possa essere un valore. La stilografica che vendo oggi non me la sono comprata e non me l'hanno nemmeno regalata per la laurea. L'ho vinta. Era il premio in palio per un concorso di bella scrittura organizzato dalla Mont Blanc. Ecco, la calligrafia è un'altra cosa bella e inutile, visto che è molto più facile scrivere qualsiasi cosa su un computer, no? Rende tutto riproducibile, condivisibile, tutto correggibile immediatamente. La curiosità riguardo allo scrivere manuale mi è nata qualche anno fa, in un periodo in cui ero particolarmente attratto dalle cose belle e inutili. E infatti mi ero appena innamorato di Giulia. Volevo capire di più delle persone. E di lei. Era troppo tardi per iscrivermi a psicologia, quindi mi sono iscritto ad un corso di grafologia. È una cosa che consiglio a chiunque. È una sorta di terapia della scrittura. La grafologia è lo studio della grafia e ha come fine quello di rivelare le caratteristiche interiori delle persone. Il principio fondamentale della grafologia è che non esistono due scritture uguali perché non esistono due persone uguali. La mia insegnante era una bella e distinta signora di 80 anni, che oltre ai corsi per neofiti della scrittura lavorava come consulente in selezione del personale, per aziende o società che le chiedevano di studiare la grafia delle persone che volevano assumere, per scovarne i lati bui e nascosti. La prima cosa che ci disse lei fu che la scrittura non è qualcosa di statico, ma che è il risultato finale di una complessa attività neuromuscolare a cui partecipano non solo e non tanto la mano, ma tutte le componenti di ogni individuo, quelle fisiche, quelle psichiche e quelle neurologiche. Forse l'equivalente della grafologia quando si scrive al computer è lo studio di quali dita usiamo per pigiare i tasti della tastiera e in quale sequenza, anche se non credo abbia la stessa efficacia. Ecco, in quel corso ho imparato che chi scrive le parole con le lettere addossate l'una all'altra esprime ansia ed apprensione. Chi scrive parole con grandi lettere ha una personalità dotata di forza e determinazione. Chi invece scrive con una grafia fluida, veloce, esprime intuito e facilità di adattamento. Non vi racconterò che cosa ho scoperto di Giulia leggendo la sua grafia, ma potete immaginarlo. Ecco, posso solo dirvi che, come spesso accade, vediamo solo quello che vogliamo vedere. L'ultima cosa che ho imparato in questo corso è stata che la bella grafia non esiste e che ognuno ha il proprio modo per esprimere uno stile grafico. Giusto per non essere troppo allineato ovviamente agli insegnamenti, ho pensato di partecipare ad un concorso di grafia organizzato dalla casa di penne tedesca. Ho partecipato nella categoria grafia classica e ho vinto. È sempre bello vincere qualcosa ed è ancora più bello ricevere il premio. La penna mi è arrivata a casa dopo 10 giorni. Era avvolta nella carta velina e quando l'ho aperta ho provato proprio la sensazione di inutilità e di bellezza di cui parlavo prima. Me la sono girata un po' tra le mani, l'ho aperta, ho caricato l'inchiostro, ho soffiato nel pennino e l'ho appoggiato sul foglio bianco. Ma l'unica cosa che sono riuscito a scrivere è stato il mio nome. Quel giorno l'ho richiusa nella sua custodia nera, l'ho messa in un cassetto e non l'ho più usata. Nonostante tutto, nonostante l'inutilità degli oggetti di valore, nonostante il monte bianco stilizzato e il corso di grafia, questa penna stilografica è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 150 euro. L'asta su eBay parte, tenetevi forte, da 99 centesimi. Andate a vederla sul sito radio24.it nella pagina di Vendo Tutto. Per raccontarmi invece quali sono gli oggetti che avete vinto come premio di un concorso o di una gara, 80024 0024. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your hand. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. Sono le 16:21 minuti, questa è Radio 24. Intanto al 349-238-6666 mi scrive, dov'è? Eccola qua, non si firma, ma non ti leva il cuore vendere tutto? È bellissima la formula, non ti leva il cuore, no guarda, è il contrario, mi solleva. Intanto 80024-0024, i premi che avete vinto nei vostri concorsi. Andiamo a Lucca da Giorgio, pronto Giorgio? Pronto? Sì, sono io. Sei tu Giorgio. Ho vinto una faretra in un concorso di tiro con l'arco. Quindi allora, diciamo, il pregresso è che tu tiri con l'arco, o eri lì per caso? Sì, sì, ovviamente io tiro con l'arco e mi è capitato in una gara fatta nel 2009 di vincere una faretra. La fregatura è che la faretra è bellissima, ma è da spalla, mentre invece serve una faretra da fianco, diciamo. Cioè, perché tu, quindi... non, perché il tiro con l'arco moderno prevede la faretra di fianco? Beh, di solito la faretra per le gare olimpiche, le gare normali, è di fianco. Ah, okay. Mentre invece per l'arco, l'arco longbow, l'arco di campagna, diciamo, quello di legno, quello classico. Certo, quello dei cavalieri del 600. Proprio quello lì, quello degli arcieri del Medioevo. Era sulle spalle. Avevano la faretra alla spalla. Ma scusa Giorgio, perdonami la venalità, ma quanto viene una faretra come quella? Ah, quella che ho vinto io è artigianale, quindi praticamente ha un valore altissimo o bassissimo, dipende se uno gli serve o meno. Comunque artigianale, fatta a mano, è molto bella, tutta in cuoio. E dove ce l'hai, Giorgio? Ce l'ho a casa. Ma tipo appesa da qualche parte o in un armadio? Sì, no, io la tengo appesa in Bella Vista perché è un trofeo, diciamo, però non mi serve. Giorgio, grazie mille, tieniti grazie. La tua faretra stretta. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Bergamo da Giovanni. Pronto, Giovanni? Pronto, buonasera. Ciao Giovanni, buongiorno, buonasera. Ciao. Insomma, che cosa hai vinto e a che gara ovviamente? Allora, quando ero giovane, circa 30 anni fa, correvo in bicicletta. E quanti anni hai Giovanni adesso? Adesso 51, quindi... Guarda, ne dimostri almeno 40. Grazie mille. Prego, figurati. Quando andavi in bicicletta? No, ecco, durante una vittoria di una gara, uno dei tanti premi è stata una bellissima capretta viva da portare a casa. Cioè, ma tu cos'era arrivato? Io ero arrivato primo, avevo vinto quella gara e oltre alla Coppa Trofei c'era questa bellissima capretta che, come ti dico, l'avventura chiaramente è stato portarla a casa. E quindi, scusami, tutti gli animalisti all'ascolto si domanderanno: e che cosa ne hai fatto della capretta? L'ho regalata, io abito in un paesino piccolo, ho degli amici che avevano una cascina e l'ho regalata. E l'hai regalata? Vabbè, sì, è ancora viva? No, direi di no, se era 30 anni fa. Quanto dura una capra? Quanti anni c'ha? 10 direi. Ma vale la regola dei 7 anni come per il cane? Che ogni anno di una capra vale 7? Non si sa, non sappiamo, neanche di là da vetro lo sanno. Giovanni, grazie mille, buona giornata. Andiamo con Elisabetta da Cremona. Pronto Elisabetta? Sì, ciao. Ciao. Dimmi tutto. Allora, io ho fatto un bellissimo torneo di scala 40 all'oratorio col gruppo anziani. Quanto tempo fa, Elisabetta? Ma 2-3 anni fa. Uh-huh. E ho vinto, stranamente, però sono riuscita a vincere, e ho vinto un salame e una zanzariera. Scusami, ma com'è che erano abbinati i due premi? Non saprei dirti proprio la logica, era una cosa un po' assurda, però me li sono presi e me li sono portati a casa. E quindi la zanzariera è appesa adesso? No, sarà me l'ho mangiato. La zanzariera, diciamo che l'abbiamo riciclata alla successiva pesca dell'oratorio. Giusto, ecco, ovviamente. Non sapevo dove metterla. Ma Elisabetta, era il primo premio questo? Yes. Ehi, ricchi premi proprio, era, sì, era, sì, era sì, una garona questa di scala 40. Insomma, l'oratorio è l'oratorio. Certo. Elisabetta, ti ringrazio molto. Ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo a Como, provincia di Como. Giuseppe. Buongiorno. Ciao Giuseppe. Buonasera. Buonasera. Io... Nella mia vita, diciamo, sono stato fortunato, perché più fortunato riuscivo a partecipare per vincere, no? Sì, giusto. Non ed è meglio vincere primo, che partecipare. No. No, è importante partecipare. Io arrivo primo, ma il problema è arrivare fino in fondo, no? Ok. Tu cosa hai vinto, Giuseppe? Io ho cominciato a scuola a vincere un primo premio. Io parlo degli anni 60, perché ho 73 anni, andavo a scuola, avevo 20 anni. La scuola superiore, ho vinto il primo premio, una medaglia d'oro che poi l'ho venduto perché ero povero, certo. E 20.000 lire. È stata la prima settimana che ho fatto al mare con 20.000 lire. E ti sei fatto la vacanza. Senti, ma invece un oggetto, Giuseppe, l'hai vinto o no? Sì, ho vinto un'automobile. Un'automobile? In una gara di sci. Però, per non fare dici, guarda, dobbiamo salutarti. Dimmi solo che auto era, Giuseppe. Com'è? Che auto era che hai vinto? Una Matisse. Una Matiz, ok. Giuseppe, grazie mille, ciao, in bocca al lupo per tutto. No. Ciao Giuseppe. 800 24. Purtroppo non riusciamo più a prendere altre telefonate. Però sono arrivati dei messaggi e delle mail che mi chiedono qual è la sensazione che si prova, no? A proposito di levare, non ti leva il cuore, che sensazione si prova a vendere tutti gli oggetti che fanno parte della propria vita. Allora, la sensazione, ve lo dico proprio ufficialmente, per questo che vi consiglio di provarla, è meravigliosa, ed è proprio quella di un'enorme leggerezza. Non so se avete visto, se qualcuno di voi l'ha visto recentemente, uno dei film d'animazione più belli degli ultimi tempi, è un film che si chiama Up, della Pixar. C'è una scena che descrive questa sensazione perfettamente. È la scena in cui il protagonista lancia fuori di casa tutti i suoi mobili. Parte primo con il giradischi, eccolo qua, poi prende il comò con lo specchio ovviamente, poi prende una cassa panca e via anche quella, poi tira fuori il tavolo della cucina, mi pare, e fuori anche quello. Poi le foto, i quadri appesi alle pareti. A un certo punto piglia il comodino fuori dalla finestra, il salvadanaio, prende i libri, li butta fuori, tutto. Poi butta fuori la TV, il frigorifero. E questo vi assicuro che è il migliore modo per liberarsi di tutte le cose. Questo è un film meraviglioso, è uscito poco tempo fa al cinema. Si chiama Up, a breve sarà in DVD probabilmente. È un film bello perché non solo parla di sogni, parla di futuro, parla di passato, di cose e di ricordi soprattutto, ma soprattutto racconta come lasciarli andare. Sono le 16, 28 minuti e 7 secondi, finisce anche qui, anche oggi, questa puntata di Vendo Tutto. Domani si continua la vendita, domani è la volta di un oggetto che per me è importante non tanto per quello che è, ma per quello che contiene. Domani vendo il mio iPod, è un iPod di quarta generazione con ghiera fissa soft touch, 20 giga di memoria e soprattutto 4000 canzoni, che sono state la colonna sonora dei miei primi 35 anni di vita. Il mio iPod domani, perché quella di oggi invece era la storia della mia penna stilografica. Per vederla e comprarla andate sul sito radio24.it. Mi raccomando, anche voi non fatevi scrupolo di liberarvi delle vostre cose, perché alla fine una stilografica è solo una stilografica.